La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta qui in diretta 16:30 primi 31 secondi dagli studi di Radio 24 da Milano. Vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per proporre, lo sapete, più di una trasmissione su due viene dalle vostre richieste, segnalazioni, le storie che vi capitano, insomma, rispetto ai problemi del nostro paese. Oggi prendiamo spunto per la puntata da un tema di cui non ci si occupa quasi mai, e anzi, se lo si fa, di solito scappa fuori l'interesse per il tema dal punto di vista fiscale. Dal punto di vista fiscale, perché parliamo oggi di un pezzo dell'economia del mare, e vi farò subito la domanda per chiedervi di intervenire, una domanda precisa, di intervenire all'800240024 per le telefonate o 349-238-6666 con i vostri sms, perché ci occupiamo della nautica da diporto, delle barche, anzi ci occupiamo delle grandi barche. Che uno sa perfettamente che nel nostro paese, scusate il colpo di tosse, scusate ancora, è un classico tema di cui ci occupiamo nell'informazione solo dal punto di vista fiscale, perché è il classico tema sul quale lo Stato ha indirizzato campagne per accertare patrimonialmente il reddito di chi li prende a nolo, oppure naturalmente proprietari, gli armatori e così via. E ricordate che anni fa, oramai 3 anni fa, proprio questo settore ha conosciuto un intervento fiscale ad hoc aggiuntivo su una tassa che all'inizio fu concepita come una tassa di stazionamento nei porti, e che rispetto alle attese di gettito dello Stato naturalmente si risolse in un buco assoluto, perché come è evidente i proprietari di yacht, grandi yacht eccetera eccetera, a quel punto evitarono le marine e i porti italiani, mentre invece l'effetto non fu solo di ottenere un gettito inferiore a meno della metà di quello che ci si aspettava da parte dello Stato, ma che cosa avvenne? Avvenne che naturalmente a pagare il prezzo furono non i ricchi proprietari o noleggiatori di barche che semplicemente andarono verso la Croazia, la Corsica, la Spagna, ma naturalmente a pagarne il prezzo sono stati coloro che lavorano spaccandosi la schiena appunto nelle infrastrutture portuali, nei servizi di marineria, nei ristoranti, negli alberghi e così via. Quindi il classico contraccolpo all'italiana, che immagina interventi fiscali per colpire i famosi ricchi e finisce per colpire lavoratori che tentano di sbarcare il lunario, soprattutto poi con un'economia che è fortemente stagionale, come è quella ovviamente delle imbarcazioni da diporto. E quindi, invece che attirare questo particolare turismo, abbiamo finito per darci da soli un'altra volta una bella zappa, decidete voi se sui piedi o altrove. Allora, questa è la premessa. Allora, oggi ci occupiamo esattamente di farvi capire che cosa questo segmento può rappresentare una volta che usciamo dal problema che bisogna tassarli il giusto, tutto quello che volete voi, ma tentiamo di capire insieme che cosa questa economia porta al nostro paese in termini di occupati, che cosa potrebbe portare di più, che cosa fanno gli altri paesi e perché ci sono lezioni da imparare invece di disintermediare e allontanare il turismo nautico dal nostro paese tentando invece di attirarlo, e soprattutto un po' di numeri e di conti per riflettere tutto insieme. Quindi la domanda oggi è soprattutto rivolta a chi lavora nei porti speciali per la marina nautica nel nostro paese, per farci capire se, come dicono i dati, abbiamo riniziato a vedere un po' di luce dopo 2 anni di seguito di perdite bestiali in termini numerici e di reddito per quello che avevamo realizzato fiscalmente con questo aggravio. È stata una vera campagna a favore dei nostri paesi vicini. Se avete visto qualche raggio di sole, oppure come stanno le cose, visto che i numeri erano molto caduti per tutte le decine di migliaia di persone che lavorano in questo settore. Lo spunto per parlarne con numeri precisi è un convegno che si è tenuto alla fine della settimana scorsa, organizzato da Federagenti. Federagenti è una delle categorie che lavorano in tutti i porti italiani, stiamo parlando degli agenti marittimi, che per una volta invece di occuparsi dei problemi specifici dell'eccesso di burocrazia doganale nei porti, dei problemi di arretrato dei dragaggi dei porti, insomma di tutto ciò che nel sistema portuale nel nostro paese anche lì ci fa perdere colpi, hanno deciso di occuparsi con un po' di numeri fatti esattamente su questo particolare segmento dell'economia del mare, che è quello del turismo e della nautica, e quindi hanno fatto un convegno per riflettere tutti insieme, per così dire, per proporre alla politica e al dibattito pubblico un po' di numeri per far capire quanto dal punto di vista sia dei cantieri che dei noli che delle attività dell'offerta di servizi nei porti per la nautica di porto del nostro paese questa economia muove davvero, tentando di uscire da questa specie di cappa di piombo per cui non se ne parla se non per dire tassiamola di più, e a furia di tassarla di più abbiamo visto che cosa è successo. Quindi io nel chiedervi di intervenire, soprattutto se siete addetti ai lavori, per capire come ve la passate e se vedete qualche chiaro di luce invece che solo buio come è stato negli ultimi 2 anni, ringrazio innanzitutto gli ospiti con i quali oggi vi diamo questo pezzo di informazione. Mi rendo conto, arriveranno gli sms dicendo ma è una cosa specialistica eccetera eccetera, ho capito, però la grande economia è fatta di tantissimi pezzi e il turismo italiano, per attirare, scusate se ve lo dico, soprattutto turisti ricchi, cioè quelli che spendono di più, ecco, è fatto anche di questa cosa qua, e oltretutto noi siamo un'eccellenza anche nel realizzarli i grandi hotel nei nostri cantieri, allora proprio quei cantieri che per stare in piedi, un bel numero di loro in questi anni hanno dovuto chiedere capitale internazionale, niente di male, ma talvolta anche concessioni di proprietà, e questo certo uno non può essere felice perché è avvenuto grazie a questa nostra mancanza di attenzione politica e fiscale su questo settore. Allora, gli ospiti di oggi con cui parlarne sono appunto il presidente di Federagenti, che ha tenuto da poco un convegno, quindi Michele Pappalardo, buon pomeriggio e grazie presidente. Grazie a lei, grazie dell'invito e buon pomeriggio. E poi chi per in questo convegno ha messo giù appunto una serie di slide molto chiare i numeri comparati internazionali della parte del bacino mediterraneo con cui siamo in diretta concorrenza, cioè nel Mediterraneo occidentale, e di tutta la filiera di cui parliamo oggi, cioè Lorenzo Pollicardo. Grazie Lorenzo. Grazie a lei Oscar, buongiorno. Allora presidente, io ho tentato naturalmente un inquadramento che sarà molto deficitario, però la domanda è: perché voi invece di occuparvi dei tanti problemi che riguardano il ritardo dei nostri porti, quelli commerciali, avete fatto questo convegno su questa cosa un po' specialistica che rischia fortemente di essere purtroppo fraintesa? Proprio perché vogliamo cercare di evitare di essere fraintesi. Allora, quindi partendo dai numeri che come tutti i numeri danno esattamente l'idea di ciò che stiamo parlando, e ragionandoci anche un pochettino, perché poi il pericolo di essere fraintesi ha anche delle ragioni che secondo me vanno comprese, vanno spiegate e vanno analizzate, abbiamo messo su questo convegno che francamente è riuscito benissimo, abbiamo avuto un'ottima eco e siamo estremamente soddisfatti di come sono andate le cose, proprio per cercare di spiegare a tutti quelli che sono venuti e poi a mezzo stampa, anche a quelli che hanno avuto la pazienza di leggerci, che significa questo comparto, che significa questo settore, quali sono i moltiplicatori che escono fuori da questo settore e soprattutto qual è la ricaduta, perché ci sono delle peculiarità e delle cose importanti da sottolineare, da tenere presente, che fa sì, e concludo, è vero che si parte da un mercato di nicchia, da qualcosa così lontano da tantissimi di noi, molti di noi non ci potranno neanche mai permettere di salire. La stragrande maggioranza, purtroppo, certo. Esatto, purtroppo, certo. Però alla fine noi vogliamo dimostrare, vogliamo far vedere che poi alla fine scivola, rotola, qualche granellino, qualche granellone arriva anche alla fine della scala, ecco, questo è il discorso. Allora, io partirei da questa cifra con lei, poi approfondiamo le cifre un pochino meglio con Lorenzo Pollicardo, però a me stesso ha lasciato abbastanza perplesso, poi ho visto bene la relazione e ho capito bene, ma ovviamente dire che in Italia il mercato dei grandi yacht, qui stiamo parlando solo dei grandi yacht, cioè di quelli che sono dai 30 metri in su, insomma, però che questo solo settore in Italia valga la bellezza di 2 miliardi e mezzo di euro con 13.000 addetti, francamente è una cifra, ripeto, solo i grandi yacht, che lascia stupiti, ecco, perché uno direbbe: ah beh, ma questi evidentemente la stanno sparando grossa. Come si arriva a questa cifra, Presidente? Si arriva a questa grande cifra, Lorenzo Porcardo è molto più bravo di me nello spiegare i meccanismi che hanno portato a questa cifra, ma la cifra, noi siamo estremamente convinti che sia corretta, e partiamo da calcoli che possono essere fatti da tutti. Innanzitutto il numero degli yacht, dei grandi yacht nel mondo, la percentuale dei grandi yacht del mondo che stanziano nel Mediterraneo, sui 5.000 passi grandi yacht che ci sono nel mondo, circa il 70% stazionano e vive, diciamo, e sono e navigano nel Mediterraneo. Il valore di queste grandi navi e poi un calcolo tra refitting, manutenzione e quant'altro che ci ha portato a calcolare che più o meno uno yacht, un grande yacht lascia sul territorio, lascia dietro di sé nella sua scia un 10% del proprio valore. Quindi calcolando i valori degli yacht, moltiplicando per i numeri che le ho dato prima e tirando fuori questo 10%, escono fuori i primi numeri. Aggiungendo poi tutto quello che il comparto dei mega yacht significa per i nostri cantieri, per costruzione e quant'altro, insomma, questi numeri si raggiungono molto velocemente. Allora, prima di vedere e di capire un po' meglio appunto questi numeri, che lì per lì sembrano, rispetto a chi conduce una vita normale e se li sogna di potersi noleggiare anche solo qualche giorno su yacht di quella lunghezza, io vengo subito a chiederle una cosa che in teoria dovremmo tenere alla fine, però gliela chiedo all'inizio per tentare di arrivare subito a un punto che stuzzichi i nostri ascoltatori. Nella realtà approfondiremo meglio questi numeri, ma che cosa, qual è la richiesta rivolta per una politica turistica più intelligente che ci attiri più risorse, faccia lavorare ancora più decine di migliaia di persone italiane in tutta la filiera, quindi contribuisca ad accrescere la quota di PIL turistico collegato alla nautica da diporto? Ecco, che cosa dovrebbe concretamente fare la politica cambiando le regole attuali, a vostro giudizio? Allora, facciamo una scaletta di cose che sono necessarie per attrarre grandi yacht e partiamo dalle cose che già abbiamo. Abbiamo delle coste, abbiamo un mare, abbiamo dei siti attrattivi che insomma sono unici al mondo. Quindi da questo punto di vista la base per poter poi preparare la tavola, diciamo così, è già costruita. Su che cosa dobbiamo lavorare? Innanzitutto sull'offerta di servizi. Questa gente che quando arriva in un porto vuole star bene, non vuole avere problemi e vuole spendere. Ma vuole spendere, e qui rientriamo in un concetto di lusso tutto particolare, vuole spendere perché ha la possibilità di farlo, chi è abituato ad avere il meglio, chiede il meglio, dobbiamo essere in condizioni di darglielo. Detto ciò, poi sì, quindi servizi, quando intendo servizi intendo ovviamente servizi di accoglienza proprio infrastrutturale, oltre che servizi di accoglienza proprio di quelli proprio dell'operatore, no? Che è pronto a ricevere queste imbarcazioni ed è pronto a soddisfare le richieste più strane, più strambe, più alle volte tra virgolette esasperate. E che comunque, ripeto, poi lasciano qualche soldino, perché su quei numeri là spesso e volentieri si cerca di non si va a lesinare. Detto ciò, poi abbiamo tutta una serie di problematiche che probabilmente dovremmo tenere presente e che a questo punto non fanno sì che il mega yacht sia estremamente diverso da quelle che sono necessità delle navi commerciali, navi da crociera piuttosto che navi commerciali. Noi siamo purtroppo abbastanza arretrati su tutti i segmenti, sia doganale che di sanità marittima, per quanto riguarda l'immigrazione, le formalità di immigrazione e quant'altro. Abbiamo ancora un sistema estremamente farraginoso, un sistema molto complicato, enti che non dialogano tra di loro. Se questi sono dei problemi che in una scala da 1 a 10 io posso valutare 5 per quanto riguarda l'arrivo di una nave mercantile, diventano 9 per quanto riguarda una nave da crociera, diventano 12, cioè vanno fuori scala quando mi arriva un mega yacht. Ah, ha detto. Perché, quindi è un discorso estremamente particolare. Più si alza il livello, più arrivano persone che sono abituate a chiedere e a ottenere determinati servizi, più dobbiamo essere estremamente, estremamente pronti a dare quello che vogliono nel minor tempo possibile e con l'efficacia che ci possa ovviamente far preferire allo spagnolo piuttosto che al francese, piuttosto che allo sloveno, piuttosto che al greco. Noi abbiamo due grossi concorrenti nell'area del Mediterraneo, abbiamo la Spagna e la Francia. La Grecia ha una bellezza naturali stupende e bellezze archeologiche altrettanto importanti, sui servizi e sul resto qualche carenza se la porta dietro, però con Francia e Spagna il discorso diventa difficile. Le faccio un'ultima riflessione, così giusto anche per entrare un po' nel merito della questione. E eravamo a Porto Cervo, di fronte, lei sa benissimo, c'è la Corsica, c'è Bastia. Se io faccio un pieno di carburante a Porto Cervo e poi lo vado a ripetere a Bastia, ballano 40 centesimi al litro. Non poco. Non poco. È naturalmente la sete di Stato la differenza, però il punto è questo qua, è la sete di Stato, perché da noi siamo al 62%, 63% del totale costo della pompa sui carburanti che va tra IVA e accise. Questa è, ohimè, una percentuale che ci segna come pecora nera da questo punto di vista. Adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale, poi tentiamo anche di approfondire, perché voi dovete capire che non è un caso, arrivano subito gli sms che dicono sì, però non è che troppi porti turistici in Italia con speculazione edilizia e cementificazione delle coste, quindi se significa andare ancora oltre in questa direzione è la direzione sbagliata. Questa è una classica altra reazione immediata nel dibattito pubblico italiano, però qui bisogna fare una riflessione: se i posti barca che abbiamo nel nostro paese, la loro distribuzione sulle coste è efficace, se vale meglio la pena concentrare su strutture che sono più rispettose dell'ambiente un'offerta di qualità, oppure seguire la linea della dispersione che è quella poi prevalente negli ultimi decenni, che provoca anche reazioni molto negative dal punto di vista ambientale. Torniamo su questo punto preciso e su altri, ma adesso per un minuto l'informazione sulle strade. La versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta a 16:48, primi 48 secondi. Parliamo di un tema, mi rendo conto, un po' specialistico, ma che però potrebbe dare un apporto molto maggiore al turismo italiano, dalla nautica di porto, soprattutto per quello che riguarda il segmento elevato, i grandi yacht. Partendo dai numeri che sono stati messi a fuoco in un convegno lo scorso fine settimana di Federagenti, i numeri che sono importanti, perché qui si tratta di 2 miliardi e mezzo di euro, di migliaia e migliaia di persone che in Italia sono nella fila, ripeto, dai cantieri all'offerta di servizi e così via. I messaggi che ci state mandando fino a questo momento in realtà dicono da parte di alcuni ascoltatori che evidentemente lavorano in porti al turismo, dicono no per il momento. Leggo solo uno che dice: purtroppo nessuna ripresa della fila nautica da diporto per il momento ancora in vista, il turismo ricco si sta organizzandosi altrove, nella parte adriatica, in primis in Montenegro. Quindi questo ci dice un ascoltatore della Riviera Adriatica. Allora, eravamo arrivati a un punto, per essere meglio ricettivi, oltre ai problemi doganali, degli adempimenti, della qualità del servizio da offrire per battere la concorrenza, cioè i francesi, soprattutto gli spagnoli, c'è la questione della ricettività dei posti barca e dei porti, ovviamente, per la nautica da diporto. Allora, in Italia abbiamo, prendo una delle tante slide presentate in questo convegno, 148.000 posti barca in Italia, e di questi 3.425 sono posti barca per i grandi yacht, cioè oltre i 24 metri. Chiedo a Lorenzo Policardo, poiché moltissimi pensano abbiamo esagerato con i porticcioli per nautica da turismo nel nostro paese e questo ha prodotto un mucchio di danni su parte rilevante delle nostre coste, l'alternativa qual è, Policardo? Specializzarsi in magari porti maggiori e a maggior qualità marginale del servizio offerto, oppure continuare nel point to point, che è stata la linea seguita finora, spesso esponendo anche poi chi li gestisce a perdite negli ultimi anni? Lei che dice, Policardo? I numeri cosa ci dicono? Lei prima abbia toccato essenzialmente il punto, la domanda è molto rilevante anche nell'analisi del dato. indubbiamente, intanto cominciamo a dire che come numero di porti e soprattutto come numero di marina che possono vantare posti barca per i grandi yacht, tutto sommato il Mediterraneo già oggi è leader se lo confrontiamo come numeri rispetto all'area ad esempio dei Caraibi o all'area della Florida, ed in particolare in seno al Mediterraneo le nostre coste, le coste italiane, tutto sommato hanno già una buona offerta. Credo che lei abbia toccato il punto sulla organizzazione di questi marina, essenzialmente perché i temi sono due. Un primo è l'aspetto turistico, che come abbiamo ricordato prima essenzialmente riguarda poco più di un mese all'anno, essenzialmente per le barche grandi 2 mesi all'anno. Ad esempio la Sardegna è una regione che vanta ottima capacità ricettiva nel periodo dell'estate, però poi la partita, la sfida economica, quella che dà economia sul territorio e occupazione, è quella della permanenza dello yacht, del grande yacht durante l'inverno. Che quando staziona significa i lavori, il fitting, eccetera. Esattamente, tra l'altro mi è piaciuto molto ascoltare nella sua relazione introduttiva, noi dobbiamo ricordare una cosa, è vero che questo è un prodotto di lusso, però intanto cominciamo a dire che è destinato essenzialmente ad una clientela straniera, sono pochissimi gli italiani. Esatto, che se lo possono permettere. Abbiamo stimato un 3% essenzialmente. No, quindi... anche perché facciamo la cifra, visto che c'è in una delle vostre slide, per fare inorridire chi è in ascolto o invidiare chi è in ascolto, di quanto può costare in questa classe di yacht il noleggio a settimana. Sì, beh, il noleggio costa cifre importanti, addirittura abbiamo anche nelle slide proiettato una cifra estrema di una barca di una settantina di metri, quasi 80 metri, sì. L'Indian Empress, per cui per la quale una settimana di noleggio è costata quasi $1 milione di noleggio, al quale tra l'altro poi l'utente finale deve aggiungere ancora un buon 30-40% di beni consumabili. Però basti sapere che una barca tra i 30 e i 50 metri, una settimana di charter, di noleggio, insomma, arriva a costare tra i 100 e i 150 mila dollari a settimana. Quindi è chiaro che non è una cosa per tutti. Quello che però va detto in termini di occupazione, essenzialmente, che poi l'occupazione generata, e questo vale tanto per le nuove costruzioni, per la cantieristica del nuovo, di cui noi tra l'altro siamo, lei l'ha ricordato, leader mondiale, noi vantiamo come paese Italia il 40% degli ordini, degli ordinativi mondiali, quindi insomma su 100 barche in costruzione nel mondo 40 sono fatte nei cantieri italiani, ma soprattutto anche nel servizio. Quello che giova alla filiera produttiva, alla forza lavoro, essenzialmente è proprio nella piccola unità lavorativa. A volte spesso si tratta anche di realtà artigianali, certo, di aziende monofamiliari se non individuali, che sono un po', come dire, il fregio del nostro paese. Allora, quindi, mi lasci dire che quando dicevo prima le cifre sono chiare, perché noi rispetto al massimo ottenuto nel 2011, quindi prima del giro di vite fiscale, avevamo 6.764 toccate di grandi yacht, quindi stiamo parlando oltre 30 metri in Italia nel 2011, nel 2012-2013 ne abbiamo perse un 10%, stiamo parlando del 10%, ma di un giro d'affari di 2 miliardi e mezzo, quindi vedete, oltre al mancato introito fiscale per lo Stato e alla perdita di posti di lavoro, questi numeri parlano chiaro. Nel 2014 abbiamo recuperato un po' meno della metà di quello che avevamo perso, vediamo come finisce nel 2015, ma intanto abbiamo anche molte telefonate. Sentiamo Riccardo dalla provincia di Pescara. Riccardo, prego. Sì, salve, buonasera. Io mi occupo di leasing nautico e di finanziamento anche dei cantieri, del loro stock. Devo dire che dal punto di vista del retail la ripartenza ancora non c'è. Dal punto di vista del cantiere qualcosa si comincia a intravedere. Però solo nel cantiere. Diciamo, l'onda arriverà tra un Speriamo. Po' anche. Okay. Grazie Alessandro. Aspetti un secondo Alessandro. Fabio da Grosseto, dobbiamo andare, sentiamo un po' di opinioni spot. Fabio, invece lei che dice? C'è qualche buon segno? No, secondo me, io volevo portare un'altra testimonianza. Secondo me, quella che vedo con il mio lavoro, io faccio l'agente immobiliare ma tratto spesso con clienti russi. E devo dire che loro, avendo barche oltre 40, sì, 50 metri, io ho avuto clienti, e parlo della Toscana. Si sono orientati altrove? No, non sono orientati, manca il posto barca. Manca il posto barca, addirittura. Questo è ancora più grave, perché se sono ancora disposti a venire qua e noi non siamo in grado di accoglierli, è un grande peccato. Ohimè, tempo tiranno. Io ringrazio ancora Michele Pappalardo, Lorenzo Policardo e tutti coloro che volevano intervenire molto più del previsto, perché purtroppo continuate con Radio 24, ma l'appuntamento com'è a domani.